Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre vi auguro buona serata. Se ci ascoltate in replica alle 20.45. La mail unabusoalgiorno@radio24.it. Il mio blog Guardie o Ladri sull'homepage del Sole 24 Ore. Ricorderete che il 9 dicembre 2008 abbiamo raccontato, grazie ad una mail mandataci da un radioascoltatore, una storia abbastanza dibattuta nel Veneto, vale a dire la costruzione di un grande raccordo anulare ed una strada camionabile che dovrebbe, uso ancora il condizionale, collegare Padova e Venezia Marghera lungo oppure sopra, secondo quello che è, come dire, l'idea di molti, sopra l'idrovia Padova-Venezia. Sarebbe un'opera inutile per molti, uno scempio ambientale che andrebbe a distruggere una zona golenale del fiume Brenta spettacolare. Da alcuni radioascoltatori sono state mandate anche le foto e ovviamente devo dire che sono affascinanti, soprattutto con questa bruma autunnale. Qual è la novità e perché torniamo a parlarne oggi? Perché all'epoca abbiamo dato conto dei fatti, dei pro e dei contro, chi la voleva, chi non la voleva. Ma la cosa straordinaria, se fosse vera, e lo sentiremo attraverso la voce dei nostri radioascoltatori, la cosa straordinaria è la seguente. La Regione Veneto ha deciso di farla, questa strada camionabile, questo grande raccordo anulare intorno a questa zona meravigliosa del Brenta, anche se, aprite bene l'orecchio, nella legge obiettivo questa camionabile non c'è. La Regione Veneto, vale a dire, ha preso in considerazione questa camionabile come se ci fosse e quindi ha dato il via al progetto esecutivo, insomma al momento proprio per dare il via ai lavori. Attenzione, non è finito. Il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ha mandato una lettera alla Regione Veneto e gli ha detto: ragazzi, svegliatevi, io Stato non l'ho messa questa camionabile all'interno delle opere della legge obiettiva. Lo avete capito o non lo avete capito? Allora noi, scusate il gioco di parole, per capirne di più, avremmo tanto voluto avere nostro ospite l'assessore alla mobilità Renato Chisso, assessore della Regione Veneto. Allora, sentite e seguite bene quello che è accaduto. Abbiamo chiamato l'ufficio stampa, ci ha detto che avrebbe dato la sua disponibilità, poi magicamente l'ufficio stampa, beato lui, è andato in vacanza, quindi l'assessore è rimasto senza voce e senza portavoce. È talmente rimasto senza voce che in una serie di altre telefonate ha prima detto di voler partecipare, poi è sparito, non poteva né oggi, né domani, né dopodomani. Noi gli abbiamo detto: guardi che lo ascoltiamo e la chiamiamo in radio quando vuole. Risposte zero carbonella, come diciamo noi romani, vale a dire l'assessore Chisso si è perso. Se lo avete avvistato, per piacere fateci un colpo di telefono. Ed allora noi, per parlare di questa camionabile che c'è, o meglio ci sarà anche se non c'è nel tracciato, abbiamo il nostro radioascoltatore Flavio Noè, che ci ha mandato nuovamente un appello accorato a parlarne. Noi lo facciamo volentieri perché l'ambiente è tutto ciò che abbiamo in Italia, ormai devastato, ma questo è un altro discorso. Noè, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, mi dica se ho sbagliato e in cosa ho sbagliato nella mia ricostruzione. Vabbè, errori non ce ne sono. C'è questo progetto, che è il progetto di una grande tangenziale attorno alla città di Padova, una tangenziale, un anello esterno ad un anello già esistente, che è reputato ormai piccolo, un anello aperto tra l'altro, perché si ferma sul confine di un comune, il comune di Villafranca, e riparte dopo il comune di Villafranca, quindi è come vedere una torta da cui manca una fetta. E in più c'è questa camionabile che dovrebbe congiungere Padova con Venezia. E il CIPE ha detto alla Regione Veneto che di questa camionabile non c'è traccia. E di questa camionabile stiamo parlando. Esatto, non solo di questa camionabile, ma anche di tutto l'anello. Benissimo. Cioè, tutto il progetto provvede l'anello attorno a Padova più sta camionabile. Certo. Tutti i gruppi che si oppongono, ambientalisti e non, che si oppongono alla costruzione, alla realizzazione di quest'opera, hanno sempre sostenuto che questo progetto non ricade in legge obiettivo. La Regione Veneto, assieme alla provincia di Padova, che è l'altro sostenitore del progetto, ha invece sempre sostenuto che il progetto ricade in legge obiettivo, senza però fornire mai gli estremi secondo cui questo progetto ricadrebbe alle legge obiettivo. Ecco, noi avremmo voluto appunto che questi estremi ce li raccontasse con la sua voce l'assessore. Abbiamo detto che appunto l'assessore ha declinato in maniera molto atipica l'invito, ma noi ce ne occupiamo non tanto, non solo per fare una battaglia ambientalista, perché non sta a me decidere se è giusto o non giusto farla questa opera, perché a me questo io non interessa, posso avere le mie idee, ma questo è un altro discorso. Ma la cosa straordinaria è che uno dice che non c'è e l'altro dice che c'è, cioè delle due l'una, terza un non datur, non può essere che c'è ma non c'è, insomma, o sbaglio, Noè? No, ha pienamente ragione. Il fatto è che appunto il CIPE, come anche il Ministero delle Infrastrutture, si sono espressi in merito e hanno detto che al momento, come noi abbiamo sostenuto, il progetto non ricade in legge obiettivo, che semplicemente è stata fatta richiesta di inserirlo in legge obiettivo. Allora, ma la cosa non è ancora stata considerata. Benissimo, allora se voi avrete il piacere di leggere magari su internet, per chi non è di Padova, le cronache della Nuova Venezia piuttosto che del Gazzettino intorno al 20 aprile 20, 21, 22, troverete anche una serie di animate e accese assemblee pubbliche in cui il pubblico abbastanza ferocito si scaglia contro questo progetto e contro i politici che magari invece lo sostengono. Però uno può dire, vabbè, ma le associazioni nate spontaneamente possono essere a tutela del proprio territorio, anche se in realtà non guardano al di là del proprio naso, c'è sempre la politica del no, il no dei verdi, di chi ha tutela e amore per l'ambiente, e che si contrappone invece a questa politica del fare, no, di cui il governo Berlusconi ha fatto e fa un vanto continuo. E quindi può starci che magari un gruppo di esagitati, di persone particolarmente calde, si scagli contro questo progetto. Proprio per cercare di capire di più, allora io ho detto, beh, chiamiamo un'associazione che storicamente in Italia rappresenta anche delle posizioni, molte posizioni anche moderate al proprio interno, ed è Lega Ambiente. E quindi ho il piacere di avere con noi collegato Lucio Passi, che è il coordinatore di Lega Ambiente Padova. Buongiorno Passi. Sì, buongiorno. Il vostro ascoltatore ha perfettamente ragione per quanto riguarda il discorso del non finanziamento, del non inserimento nella legge obiettivo della camionabile. Cioè, a noi come Lega Ambiente risulta che ci sia stata la richiesta della regione. L'8 agosto precisamente la regione Veneto ha approvato, scusate il mio inglese pessimo, il progetto in project financing. Sì. Quindi un progetto, quindi finanza essere... di progetto, diciamo, esatto, in italiano, privato. Dove dovrebbe esserci anche del capitale privato, insomma. Esattamente. Dopodiché ha fatto richiesta di inserimento nella legge obiettivo, ma a tutt'oggi, come dice il vostro ascoltatore, non è così. La cosa da dire poi è che veramente in questo caso e chi vuole fare la camionabile che sta facendo, che sta dicendo dei no, perché la camionabile che comporterebbe l'interramento di questa idrovia incompiuta che è stata, che c'è, hanno iniziato i lavori nel 65, figuratevi, e poi è rimasta ferma lì. Comunque l'interramento e poi la camionabile costerebbero 120 milioni di euro. Bazzecole, pezzillacchere direbbe tutto. Però attenzione, esattamente la stessa cifra che servirebbe per finire l'idrovia e per portarlo allo standard europeo, quindi allo standard 5, quello che permette quindi il trasporto dei grandi container, e questo significherebbe poter trasportare sull'idrovia almeno 3 milioni di tonnellate di merci all'anno, che sono esattamente l'equivalente di quello che passa sulle strade. Insomma, quelle famose autostrade del mare, o se mare non è, insomma, acqua, sì, di cui tanto si parla ma nessuno fa niente. Ma, mi tocca una curiosità, Passi. A me veramente sconcerta questo fatto, cioè in Italia noi siamo capacissimi di far apparire quello che non è e il contrario, ma almeno con voi, sì, l'assessorato, la Regione Veneto, ha cercato un'interlocuzione, hanno detto dei no anche a Legambiente, così come anche ad altre associazioni, per carità del Signore, non è che voglio dire che Legambiente ha, come dire, l'effigie del paladino dell'ambientalismo in Italia. Diciamo che l'assessore Chisso con Legambiente ha un'interlocuzione molto difficile e quindi ogni tanto ci scrive una cartolina, qualcosa di questo genere. Fondamentalmente fuori dalla metafora, siamo costretti a fare richieste formali per avere risposte da Chisso. Ma mi sembra che non abbiate comunque le risposte. No, in effetti noi non abbiamo risposte, cioè abbiamo tutt'oggi, facendo la ricerca dati che si può fare, abbiamo trovato traccia della richiesta della regione al governo per l'inserimento del progetto nella legge obiettivo, abbiamo la risposta del CIP, a cui non risulta nulla, certo. Ma ripeto, Chisso a noi non ha detto nulla su questa assoluta cosa. Ecco, voglio dire, un'amministrazione pubblica dovrebbe essere una casa di vetro, no? La massima trasparenza. Il fatto che voi avete dovuto fare richiesta anche per avere le note, le annotazioni e i documenti della Regione Veneto da una parte, del CIPE dall'altra, la dice già lunga. Lo chiedo a lei Passi, perché probabilmente lo chiedessi a Noè e sarebbe pronto giustamente a fare ogni cosa per il suo territorio, ma il prossimo passo di Legambiente, delle associazioni verdi, di questi comitati spontanei, quale sarà? Vi incatenerete nudi di fronte alla Regione Veneto o cos'altro? Ma noi innanzitutto rilanciamo insieme all'università, perché questi studi sull'idrovia e sui costi per finire l'idrovia e non fare la camionabile non vengono da noi, ma vengono dall'Università di Venezia. Noi rilanciamo questa cosa, cioè con gli stessi soldi, con gli stessi identici soldi, apriamo l'autostrada del mare e risparmiamo 3 milioni di tonnellate trasportate. E non mi sembra poco. Con PM10 conseguenze che ancora oggi attanaglia. Bene, il PM10 sarebbero le polveri sottili, quindi diciamo così l'inquinamento dato dalla percorrenza delle automobili o di ogni mezzo appunto che purtroppo inquina su 2 o 4 ruote. Io ringrazio Passi, ringrazio Noè, grazie regia Peter Bescapè, in studio Laura Faggini e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.